mondo intorno, che bellezza, mamma mia! Il paradiso appena un passo fuori casa mia. M'hanno detto non fidarti, che poi te ne pentirai, che può succedermi di tutto, che non si sa mai. E invece non c'è niente che non mi va. Questa è perfettamente la mia città. Suona la campana, sono le 7 di mattina, stare in piedi è già quest'ora, è una gran fortuna. E buongiorno al nuovo giorno, e a chi arriva da lontano, a chi prenderà la vita per il verso buono. E voi? Dove state lavorando? Cosa succede? Non succede nulla, Pinocchio. È solo un nuovo giorno. E come ogni giorno andiamo a lavorare. Suona la campana per chi sta facendo tardi, chi rimane ancora a letto, sono soli sordi. Tu dovresti stare a scuola per non meno da mezz'ora, non c'è posto in questo mondo per chi non lavora. E voi? Non andate a lavorare, noi stiamo lavorando e lavoriamo tutta la settimana. Settimana? Che cos'è una settimana? Che cos'è una settimana? Che cos'è una settimana? Oh, mi volete dire che cos'è? Lunedì per cominciare bene, martedì non se ne può già più. Mercoledì, se il cuore non ti tiene, c'è un segreto per tirarti su. Basta solo pensare che ormai si avvicina domenica. Giovedì stringiamo forti i denti, venerdì siamo da buttar via. Solo sabato ci fa contenti e ci salta addosso l'allegria. Soddisfatti e felici è l'idea che ritorna domenica. Questa gente anche ad ufficio, a scuola e lavorare. Tutta notte da vidare, non ti far fregare. Non far niente tutto il giorno è la cosa giusta. A far betto tutto il resto è soltanto noia, noia, noia, noia e basta! Lucignolo, vai a scuola e lascia stare Pinocchio! Cominci bene la settimana, Lunedì per cominciare bene, martedì non se ne può già più, mercoledì se il cuore non ti tiene, c'è un segreto per tirarti su, giovedì far vita si fa tosta, venerdì siamo da buttar via, ma di sabato diciamo basta, finalmente domattina è festa, e domani è già domenica, metteremo i fiori alla finestra, passa lunedì, passa martedì, passa mercoledì, passa giovedì, passa venerdì, passa sabato, ma domani è già domenica, e domani è già domenica, e domani è già domenica, e domani è già domenica, e domani è già domenica, e domani è già domenica. Si lavora un sacco, ma ti insegno un gruppo. Conto i giorni, Io un trucco già domenica e domani è già domenica. Per tutti c'è una domenica.